day after day, alone on a hill. The man with the foolish grin is keeping perfectly still, but nobody wants to know him. They can see that he's just a fool, and he never gives an answer. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Well, on the way, head in a cloud, the man of a thousand voices talking perfectly loud, but nobody ever hears him or the sound he appears. Salve. Dopo questa lunga pausa estiva, finalmente ci ritroviamo. In questo periodo devo dire che la mia eutopomania, scusate il neologismo senz'altro non troppo felice, si è fortificata ed è per questo che in questa rentrée non posso tacere, riprendendo e continuando il filo del discorso del nostro ultimo incontro che verteva sulla necessità ontologica di dissacrare l'indigenza e l'indecenza degli schiaccianti e inqualificabili dispositivi attuali. Ma visto che comunque non voglio rendermi ostaggio di querelle scontate, trite e dissennate, come al solito, alla mia maniera un po' allusiva, per chi ha orecchie da intendere e in uno sforzo rievoluzionario, vorrei segnalare la percezione di un disaccordo non risolto e galvanizzare all'intuizione di un accordo non ancora svelato, dispensando insinuazioni come eco sottili e incandescenti che possano sospingerci verso un'armonia da ritrovare. E prima di andare avanti, per celebrare questa armonia, questo legame, questa molteplicità, ascoltiamo l'inno alla gioia, interpretato da 180 ragazzi di tutto il mondo, contro tutte le passioni tristi di questi strani tempi. Ciao, io sono Alice e vengo dall'Italia. Hello, my name is... Hola, mi nombre es Axel. Hello, my name is Sofia. Camus afferma che in effetti spesso per risolvere tutti i problemi essenziali, non esistono probabilmente che due metodi di pensiero, quello di La Palisse e quello di Don Chisciotte. Quello di La Palisse mi sembra attualmente quello imperante e legato a stereotipi di strategia politica. Quello di Don Chisciotte, per me, paladina del paradigma del terzo incluso, appare molto più vicino ad un utopico tertium quid, tutto da scoprire. E allora questa sera ho scelto per noi tutti di leggere alcuni brani di un Don Chisciotte del passato, Etienne de la Boissie, e ascoltare la voce di un Don Chisciotte del presente, Giorgio Agamben. Entrambi forse potrebbero contribuire a farci continuare a resistere e lottare per un futuro di utopie, malgré tout, nonostante tutto, soprattutto perché questo che ascolterete di seguito non accada o non continui ad accadere in un modo o nell'altro. Allo scopo di porre un tempestivo freno al deteriorarsi delle condizioni e per assicurare il bene comune, in questi territori viene dichiarato lo stato d'emergenza. Per decreto di Lord Cutler Beckett, legittimo rappresentante di Sua Maestà il Re. Secondo quanto previsto dalla legge marziale, i seguenti istituti sono temporaneamente emendati. Diritto di assemblea, sospeso. Diritto di habeas corpus, sospeso. Diritto di assistenza legale, sospeso. Diritto di sentenza da una giuria di pari, sospeso. Per decreto, qualunque persona trovata colpevole di pirateria o che assista una persona condannata per pirateria o che si accompagni a una persona condannata per pirateria sarà appesa per il collo finché morte non sopraggiunga. Ora, come in una coscienza collettiva, considerata come condizione e campo d'azione, e che impiega ognuno di noi come centro e come mezzo, mi unisco a queste voci, quelle di Etienne de la Boissie e di Giorgio Agamben, a questi legami di unità, nel tentativo di scomparire nella penetrazione della molteplicità. Etienne de la Boissie, filosofo, scrittore, politico e giurista francese, compose, forse nel 1553, un breve scritto di una trentina di pagine intitolato «Il discorso sulla servitù volontaria». Questo testo consiste in una breve requisitoria contro l'assolutismo e pone la questione della legittimità di ogni autorità su una popolazione e tenta di analizzare le ragioni della sua sottomissione. L'originalità della tesi sostenuta dalla Boissie è di dimostrarci che, contrariamente a quanto molti si immaginano quando pensano che la schiavitù sia forzata, è in verità tutta volontaria. La posta in gioco politica del discorso si esprime nella denuncia e a volte anche nella collera. Attraversa la storia, perché la servitù volontaria è un problema transstorico. Leggendo il testo, ci si sente brutalmente e improvvisamente espulsi dalla comunità degli uomini di buona volontà, venendo ad aumentare il numero degli stolti che lavorano alla propria schiavitù. Siamo tutti messi sotto accusa e allo stesso tempo siamo spinti a lottare per l'autonomia politica affinché la schiavitù senza costrizione non sia più quella banalità che permette al dominio di mantenersi. Ve ne leggerò alcuni stralci tra i più rappresentativi a mio avviso. Chi vorrà potrà, per approfondire, ritrovare il testo integrale su internet in PDF. Chiameremo vili e codardi tutti coloro che si sono assoggettati al tiranno? Che due, tre o quattro persone si lasciano sopraffare da uno è strano, tuttavia può accadere. In questo caso si potrà ben dire che è mancanza di coraggio. ma se 100, se 1000 persone si lasciano opprimere da uno solo, chi oserà ancora parlare di viltà, di timore di scontrarsi con lui, anziché affermare che si tratta di mancanza di volontà e di grande abiezione? E se vediamo non 100 o 1000 persone, ma 100 villaggi, 1000 città, milioni di uomini che non fanno nulla per attaccare e schiacciare uno solo, che li tratta nel migliore dei casi come servi e schiavi, come potremo qualificare un simile fatto? Si tratta ancora di viltà? Ma in tutti i vizi ci sono dei limiti oltre i quali non si può andare. Due uomini, ammettiamo anche 10, possono avere paura di uno, ma se 1000 persone, che dico, 1000 città, non si difendono da uno solo, questa non è viltà. Non si può essere vigliacchi fino a questo punto. Così come aver coraggio non significa che un uomo si debba mettere da solo a scalare una fortezza, attaccare un'armata, conquistare un regno. Che razza di vizio è allora questo, se non merita neppure il nome di viltà, se non si riesce a qualificarlo con termini sufficientemente spregevoli, se la natura stessa lo disapprova e il linguaggio rifiuta di nominarlo? È una cosa davvero straordinaria osservare il coraggio che la libertà mette in animo a coloro che la difendono, ma quel che avviene in tutti i paesi, fra tutti gli uomini, tutti i giorni, e cioè che uno solo opprime 100, 1000 persone e le prive della loro libertà, chi potrebbe mai crederlo se fosse semplicemente una notizia che ci giunge alle orecchie e non capitasse invece davanti ai nostri occhi? Se questo accadesse in paesi lontani e qualcuno venisse a raccontarcelo, chi di noi non penserebbe che si tratta di una pura invenzione? Va aggiunto inoltre che non c'è bisogno di combattere questo tiranno, di toglierlo di mezzo. Egli viene meno da solo. Basta che il popolo non acconsenta più a servirlo. Non si tratta di sottrargli qualcosa, ma di non attribuirgli niente. Non c'è bisogno che il paese si sforzi di fare qualcosa per il proprio bene, è sufficiente che non faccia nulla a proprio danno. Sono dunque i popoli stessi che si lasciano, o meglio, si fanno incatenare, perché col semplice rifiuto di sottomettersi sarebbero liberati da ogni legame. È il popolo che si assoggetta, si taglia la gola da solo e, potendo scegliere tra la servitù e la libertà, rifiuta la sua indipendenza, mette il collo sotto il giogo, approva il proprio male, anzi, se lo procura. Ma se per avere la libertà è sufficiente desiderarla con un semplice atto di volontà, si troverà ancora al mondo un popolo che la ritenga troppo cara, potendola ottenere con un desiderio? Come il fuoco che da una piccola scintilla si fa sempre più grande e più trova legna, più ne brucia, ma si consuma da solo anche senza gettarvi sopra dell'acqua, semplicemente non alimentandolo, così i tiranni più saccheggiano e più esigono, più distruggono e più ottengono mano libera, più li si serve e più diventano potenti, forti e disposti a distruggere tutto. Ma se non si cede al loro volere, se non si presta loro obbedienza, allora, senza alcuna lotta, senza colpo ferire, rimangono nudi e impotenti, ridotti a un niente, proprio come un albero che, non ricevendo più la linfa vitale dalle radici, subito rinsecchisce e muore. Siate dunque decisi a non servire mai più e sarete liberi. Non voglio che scacciate il tiranno e lo buttiate giù dal trono. Basta che non lo sosteniate più e lo vedrete crollare a terra per il peso e andare in frantumi come un colosso a cui sia stato tolto il basamento. Così la prima ragione della servitù volontaria risulta essere la consuetudine. Proprio come quei destrieri che all'inizio mordono il freno, ma poi ci pigliano gusto, e mentre nei primi giorni si mostrano recalcitranti appena si mette loro sopra la sella, in seguito imparano a sfilare nelle loro ricche bardature e se ne vanno tutti fieri e orgogliosi dei loro finimenti. A volte si sente affermare tranquillamente di essere stati sempre sottomessi e che già i padri hanno vissuto in queste condizioni. Costoro pensano di essere obbligati a sopportare questo danno, si persuadono l'un l'altro con degli esempi e sono loro stessi, col trascorrere del tempo, a legittimare il potere di coloro che li tiranneggiano. È ben vero che si trova sempre qualcuno più fiero degli altri, che sente il peso del giogo, non può trattenersi dallo scuoterlo e non riesce ad abituarsi alla servitù. Costui, come Ulisse che per mare e per terra cercava continuamente di rivedere il fumo della sua casa, non riesce a dimenticare i suoi naturali diritti, a non pensare a coloro che l'hanno preceduto e alla condizione in cui vivevano. Sono proprio persone di questo tipo che, avendo chiari intendimenti e spirito lungimirante, non si accontentano di guardare a ciò che sta loro immediatamente dinanzi, ma hanno l'occhio attento al passato e a ciò che potrà accadere nel futuro. Si rifanno alle cose avvenute un tempo per giudicare il presente e discutere dell'avvenire. Costoro, avendo avuto per natura uno spirito acuto, l'hanno saputo anche educare con lo studio e la scienza. E quando anche la libertà fosse andata completamente perduta e scomparsa dalla faccia della terra, essi, rivivendola nel proprio spirito, riuscirebbero ancora ad assaporarla, e mai la servitù sarà di loro gusto, per quanto possa mascherarsi o abbellirsi. Il Gran Turco si è ben accorto che sono i libri e l'insegnamento, molto più di un'altra cosa, a mettere nel cuore degli uomini il sentimento di sé, il riconoscimento della propria dignità e l'odio per il tiranno. Per questo sento dire che nelle sue terre non vi sono molte persone di scienza e neppure le richiede. Comunque, lo zelo di tutti coloro che malgrado i tempi sono rimasti attaccati alla libertà, per quanto numerosi essi siano, rimane senza effetto perché non si conoscono tra loro. Sotto la tirannia ogni libertà di fare, di parlare e quasi di pensare viene loro tolta. Così rimangono tutti soli e isolati nei loro desideri. E tuttavia chi vorrà tornare a riflettere sui fatti del passato e consultare antichi annali, passando in rassegna tutti coloro che vedendo il proprio paese alla deriva e in cattive mani si misero all'opera per liberarlo con intenzione sincera e dedizione totale, ne troverà ben pochi che non abbiano raggiunto lo scopo, perché la libertà si fa largo per conto suo. Ma per tornare al nostro argomento, la prima ragione per cui gli uomini servono di buon animo è perché nascono servi e sono allevati come tali. È davvero pietoso ricordare quanti stratagemmi abbiano messo in atto i sovrani di un tempo per impiantare la loro tirannia, di quali mezzucci si siano serviti trovandosi davanti una plebaglia fatta apposta per loro, incapace di evitare qualsiasi trabocchetto che le venisse teso, ingannata con estrema felicità e tanto più sottomessa quanto più il tiranno si prendeva gioco di lei. Appena il re diventa tiranno, tutta la feccia del regno, tutti coloro che sono posseduti da un'ambizione senza limiti e da un'avidità sfrenata, si raggruppano attorno a lui e lo sostengono in tutti i modi per aver parte al bottino e diventare essi stessi tanti piccoli tiranni sotto quello grande. Così il tiranno opprime i suoi sudditi, gli uni per mezzo degli altri, e viene difeso proprio da chi, se non fosse un buono a nulla, dovrebbe temere di essere attaccato. Ma questi miserabili, abbandonati da Dio e dagli uomini, sono contenti di sopportare dei danni, pur di rifarsi non già su colui che ne è la causa, ma su tutti quelli che, come loro, sopportano senza poter far nulla. Eppure, vedendo questa gente che striscia ai piedi del despota per trarre profitto dalla sua tirannia e dalla servitù del popolo, spesso mi stupisce la loro malvagità. Altre volte, invece, è la loro stupidità che mi fa pena. Perché, diciamo la verità, che altro può significare avvicinarsi al tiranno se non allontanarsi dalla propria libertà e abbracciare, anzi, per meglio dire, tenersi stretta la servitù, obbligati a misurare le parole, la voce, i gesti, gli sguardi. Questo il grido di La Boissy e la sua lapidaria frase «Siate decisi di non servire più ed eccovi liberi» risuona ancora spesso nelle lotte un po' in tutto il mondo, ma ora sappiamo che purtroppo è insufficiente, perché la riproduzione del mito dell'autorità avviene a livello intimo della persona umana. Infatti, come afferma Eduardo Colombo, anarchico, medico e psicanalista argentino, nel suo articolo «Anarchismo, obbligo sociale, dovere d'obbedienza», ribellarsi contro l'influenza della società esige una ribellione, almeno in parte, contro se stessi. Ed è questo il momento più difficile della libertà. E in questa circolarità vertiginosa del tempo storico, in attesa delle parole di Giorgio Agamben, Don Chisciotte del presente, ascoltiamo l'enigmatica composizione del magnifico filosofo tedesco Nietzsche, Frammento in sé, un brevissimo brano per pianoforte solo, che sembra evocare con quell'ininterrotto e ineluttabile da capo di stelle danzanti la circolarità dell'eterno ritorno. Ma attenzione, un eterno ritorno da non intendere come ritorno del medesimo, ma come ritorno di estreme metamorfosi, la piena realizzazione della propria diversità, ciò a cui ognuno di noi, utopiste e utopisti, dovremmo aspirare. Giorgio Agamben è considerato il maggiore filosofo politico dei tempi contemporanei ed è una delle referenze maggiori del Comitato Invisibile e dei suoi epigoni. In particolare ha teorizzato, nella linea di Foucault, la biopolitica, una struttura di potere molto antica, di cui fa risalire la genealogia all'antichità occidentale e che da allora non ha cessato di diffondersi fino a diventare la forma dominante della politica negli stati moderni, uno stato di eccezione diventato la regola. L'oggetto proprio della mia politica è la vita nuda, Zoe, che denotava nei greci il semplice fatto di vivere, comune a tutti gli esseri viventi, distinta dalla vita qualificata, bios, che indicava la forma e il modo di vivere proprio di un individuo o di un gruppo. L'oggetto della sovranità, secondo Giorgio Agamben, non è dunque la vita qualificata del cittadino, ma la vita nuda e ridotta al silenzio dei rifugiati, dei deportati e dei banditi, quella di un essere esposto, senza mediazione, all'esercizio sul suo corpo biologico con una forza di correzione, di detenzione e di morte. La struttura della politica occidentale, ci dice ancora Agamben, non è la parola, è l'interdizione. Questa tesi è chiaramente di un'attualità evidente. Le misure di sanità pubblica, di organizzazione del lavoro, di controllo dell'immigrazione o la proibizione delle droghe rivelano la natura eminentemente biopolitica delle politiche pubbliche contemporanee. Esse si applicano precisamente alle vite nude prese nelle categorie e nei dispositivi di un potere che le trattano come tali, vite esposte ed amministrate. Infatti, e allora ascoltiamo Agamben in qualche breve stralcio di intervista. Lo stato di eccezione diventa, appunto, nelle parole di Benjamin, la norma, la regola, ed è quello che vediamo oggi. Noi assistiamo oggi a uno stato di eccezione che è diventata la norma, a un diritto internazionale in cui sono venute meno tutte le regole di quello che Schmitt chiamava lo ius publicum europeo, ma una guerra civile, quindi siamo davanti a una guerra civile mondiale, e dall'altra, per l'interno, una condizione di stato di eccezione continuo. Tra l'altro, appunto, non è più una cosa. Quando io ho annunciato la prima volta questa cosa, la gente ancora non... Adesso è tecnicamente vero, per esempio la Francia è in stato di eccezione continuo, come la Germania di Hitler, perché non si capisce che cosa è potuto accadere nella Germania di Hitler. Non si dà, ma come è potuto accadere? Ma come è potuto accadere? Perché dal momento che Hitler prende il potere, anzi gli ha consegnato il potere, dichiara uno stato di eccezione che non è mai stato revocato. E io non credo, appunto, che sia possibile oggi, in questo punto è giusto quello che tu dicevi, non credo che sia possibile restituire allo stato di eccezione i suoi limiti definiti e tornare allo stato di diritto, no? Perché appunto questo elemento anomico che è nel cuore dello stato di diritto è esploso, è emerso fuori, non c'è ritorno, non c'è possibilità di ritorno, no? E a me mi sembra che quello che stiamo vivendo è la fine di un mondo, di un'epoca nella storia della politica dell'Occidente, cioè l'epoca delle democrazie borghesi fondate sui diritti, i parlamenti, la Costituzione, la divisione dei poteri. E questo modello, come lei anche saprà, era già in crisi da tempo, ma mi sembra che ora quello che vediamo è che si prepara proprio una nuova forma, che purtroppo mi sembra dei caratteri di un despotismo che sarà forse più pervasivo di quelli che abbiamo conosciuto finora. Perché? È semplicissimo, i politologi americani avevano chiamato security state, stato di sicurezza, uno stato in cui per ragioni di sicurezza si possono far accettare dai cittadini delle limitazioni delle libertà fino allora inconcepibili, per esempio così è stato per il terrorismo. Ecco, ora con la pandemia mi sembra che è stato mosso un passo ulteriore e che siamo entrati in un modello politico che potremmo chiamare appunto quello della biosicurezza. Il paradigma, diciamo, diventa la salute dei cittadini e grazie a questo paradigma si riescono a far accettare dagli individui delle limitazioni della libertà che non si sarebbero nemmeno sognate. Le limitazioni delle libertà che non erano mai esistite durante le due guerre mondiali, che non erano mai esistite sotto il fascismo, sicuramente cesseranno tutte quelle limitazioni che concernono per esempio la ripresa dell'attività economica, che già abbiamo visto che sta riprendendo, tutte queste tipo di attività riprenderanno. Quello che secondo me resterà, e non sono io che lo dicono gli stessi governi, è quello che si chiama il distanziamento sociale. È importante riflettere su questa formula, che è apparsa stranamente poi in tutti i paesi contemporaneamente, è strano questo, come se fosse preparato in anticipo. Non, la formula non dice distanziamento fisico, distanziamento personale, come sarebbe normale se fosse un concetto medico, dice distanziamento sociale. Quindi si tratta proprio di un paradigma nuovo di organizzazione della vita sociale, e quindi un dispositivo politico, cioè proprio un nuovo paradigma. E poi bisogna riflettere perché è stato possibile, qual è il significato. È perché questo si associa con lo sviluppo di quelle tecnologie digitali che già ci avevano abituato in parte a vivere in forma di distanziamento, cioè di comunicazione soltanto digitale. E se pensi che quello che dico che resterà, in Italia, non so in Germania, il Ministero dell'Università ha annunciato che non ora, che è giusto, sono stati sospesi, l'anno prossimo, a partire dall'anno prossimo, i corsi universitari si faranno online. Per esempio questo fatto che non ci si riconoscerà più, come dire, guardandosi in faccia, che magari la faccia è coperta da una mascherina, ma con attraverso il riconoscimento di dati biologici prelevati in anticipo, che un meccanismo digitale riconosce. Insomma, tutto questo a me non mi sembra una forma di vita molto, non solo diciamo una vita politica non è più concepibile come era prima, insomma la politica prima si è sempre concepita con gente che si riuniva, e se adesso la gente comunica a distanza, sì, può darsi, non voglio dire nulla, voglio solo dire che c'è in corso un grande cambiamento, e spesso la gente non se ne accorge, pensa appunto no, è un episodio temporaneo dopo il quale tutto ritornerà come prima, ma sono gli stessi governi che dicono che non si tornerà come prima. E ora, proprio perché anch'io come Agamben penso che non c'è poesia senza pensiero, così come non c'è pensiero senza un momento poetico, ho scovato sulla rete un brevissimo poema del nostro filosofo. Si è abolito l'amore. Si è abolito l'amore in nome della salute, poi si abolirà la salute. Si è abolita la libertà in nome della medicina, poi si abolirà la medicina. Si è abolito Dio in nome della ragione, poi si abolirà la ragione. Si è abolito l'uomo in nome della vita, poi si abolirà la vita. Si è abolita la verità in nome dell'informazione, ma non si abolirà l'informazione. Si è abolita la Costituzione in nome dell'emergenza, ma non si abolirà l'emergenza. Thank you. In chiusura vorrei leggervi questa dichiarazione del 17 settembre del 2021, sempre di Giorgio Agaben, che interpreto come l'incipit di quella comunità utopica, e qui oso il plurale, che sono convinta molti di noi cercano di realizzare. Scrive Agaben: l'Italia, come laboratorio politico dell'Occidente, in cui si elaborano in anticipo nella loro forma estrema le strategie dei poteri dominanti, è oggi un paese umanamente e politicamente in sfacelo, in cui una tirannide senza scrupoli e decisa a tutto si è alleata con una massa in preda a un terrore pseudo-religioso, pronta a sacrificare non soltanto quelle che si chiamavano un tempo libertà costituzionali, ma persino ogni calore nelle relazioni umane. Credere infatti che il Green Pass significhi il ritorno alla normalità è davvero ingenuo. Così come si impone già un terzo vaccino, se ne imporranno dei nuovi e si dichiareranno nuove situazioni di emergenza e nuove zone rosse, finché il governo e i poteri che esso esprime lo giudicherà utile. E a farne le spese saranno, in primis, proprio coloro che hanno incautamente obbedito. In queste condizioni, senza deporre ogni possibile strumento di resistenza immediata, occorre che i dissidenti